Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui ci sarà come sempre venerdì la nostra poco invidiabile classifica, ma avremo ospite nella seconda parte del programma, dopo il caso Virtuoso, il presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Claric, che ieri abbiamo criticato per la dichiarazione sulla non opportunità della lista dei debitori, quelli debitori, ripeto ancora una volta, non chi ha contratto un debito fisiologico con Monte dei Paschi e lo sta ripagando, o chi ha avuto un problema reale di imprese e quindi non è più riuscito a ripagarlo, ma diciamo i crediti così abbastanza sospetti e comunque non giustificati dal merito di credito. Questo interessava nella richiesta dell'ABI stessa, quindi delle banche italiane. E parleremo con Claric anche del Monte dei Paschi di Siena in generale, fermo restando che la Fondazione Monte dei Paschi ormai è scesa allo 0,1% del capitale, si è dissanguata in questi anni per tentare di mantenere il 51%, quello nel 2011, e poi non ce l'ha fatta. Addirittura c'è chi stima che con il crack della banca senese la Fondazione avrebbe perso una cifra superiore ai 10 miliardi di euro nel giorno in cui, per quello che riguarda il Monte dei Paschi di Siena, c'è una nota anche della borsa italiana, perché la società FTSE Russell, che gestisce l'indice FTSE MIB, ha dato un ultimatum alla banca, cioè o ritorna in borsa entro fine mese o verrà esclusa dall'indice. Il titolo è sospeso dalla contrattazione, lo ricordo, dal 22 dicembre. Nei 12 mesi precedenti aveva perso il 72%, siamo in attesa dell'aumento di capitale, in cui lo Stato, il calcolo l'abbiamo fatto ieri, dovrebbe entrare con una cifra intorno ai 6 miliardi e 600 milioni di euro per diventare il principale azionista con il 66% del capitale. E questo per quello che riguarda Monte dei Paschi di Siena. Per quello che riguarda invece la giornata complessivamente data, oggi la borsa è abbastanza tranquilla, meno 0,6%, Milano più 0,1 Parigi, più 0,2 Francoforte, più 0,4 Londra, Dow Jones più 0,36%, è in rafforzamento il petrolio che va a quasi $54 il barile, il WTI, quindi West Texas Index, in aumento di quasi il 2%, sui titoli poco mossi, Buzzi Unicem più 2,60, Brembo più 1,1, Azimut più 1%, come Tenaris sono i migliori. Biper Banca invece è un caso a sé, nel senso che perde sensibilmente più della media, il 7,20%, ancora anche UbiBanca perde il 4,80%, e su Biper c'è il bilancio 2016 peggiore e anche di un bel po' rispetto al 2015, l'utile è sceso del 90% a 14 milioni, la cedola sarà di 6 centesimi rispetto ai 10 centesimi il dividendo, quindi del 2015. Tensione anche su Banco BPM, i conti verranno diffusi a borsa chiusa, meno 4,40% UbiBanca, anche qui i conti pesano, ha perso 830 milioni contro l'utile di 116 milioni nel 2015. Il CDA comunque ha deciso un dividendo di 11 centesimi per azione, in linea con quello del 2015, pesa tutto il piano. Comunque insomma la borsa reagisce di conseguenza, e il secondo peggior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione appunto è UBI, meno 5. Tensioni appunto per i conti di Banco BPM, meno 4,40, poi Telecom Italia meno 2,80%, Exor meno 1,70, e ancora ST Microelectronics meno 1,5, Leonardo meno 1,40, come Mediobanca. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. La Cina oggi ha segnato un forte rialzo, anzi rimbalzo per alcuni versi, nelle esportazioni a gennaio, quasi l'8%. Lo dico perché a dicembre c'era stata una contrazione forte delle esportazioni cinesi, meno 6%, e le previsioni erano di un aumento delle esportazioni non superiore al 3%, quindi dato nettamente superiore alle attese, e che fa il paio con un'importazione comunque in aumento. Il segnale quindi è di una vivacità, perlomeno a gennaio, dell'economia cinese. Le importazioni cinesi hanno fatto più 16,7%, anche qui le attese non andavano oltre un 10% di aumento delle import in Cina. E poi l'agenzia di rating Fitch, oggi tra l'altro la giornata in cui Moody's verso le 20 ora italiana dovrebbe dare il voto all'Italia, vedremo se sarà rivisto. Comunque l'agenzia di rating Fitch sottolinea che l'amministrazione Trump rappresenta un rischio alle condizioni economiche internazionali e ai fondamentali globali dei ratings dei vari stati. Sottolinea infatti che la prevedibilità politica americana è diminuita con l'accantonamento dei tradizionali canali di comunicazione e gli anticipati cambiamenti nelle politiche con implicazioni globali. E poi, sempre su Trump, il muro che il presidente statunitense vuole costruire al confine con Messico costerà un po' di più di quanto stimato inizialmente. Si diceva 12 miliardi di dollari e 15 miliardi, poi ha detto lo speaker della Camera Paul Ryan. In realtà un rapporto basato su documenti interni al Dipartimento di Sicurezza stima il costo fino a 21,6 miliardi di dollari, ci vorranno almeno 3 anni. E oggi interviene sulla questione anche il presidente della Bundesbank, della banca centrale tedesca, Weidmann. La separazione e l'isolamento sono risposte sbagliate alle sfide della globalizzazione. Poi Weidmann si concentra sull'Italia e dice oggi, relativamente alle difficoltà italiane nel ridurre l'alto debito, e accenna aspettative deluse in chi sperava nella riduzione del debito italiano fra il 2000 e il 2004. E dice dopodiché, con la recessione economica i deficit dell'Italia sono di nuovo chiaramente saliti e sono rimasti a lungo sopra il limite del 3%. Ovviamente non c'è nessuna dichiarazione di Weidmann sul surplus commerciale a record contro ogni indicazione di Bruxelles da 3 anni in Germania, ma è chiaro, ognuno valuta quello che vuole. Allora, per quello che invece riguarda l'Italia, oggi il premier Gentiloni ha detto che noi ci teniamo come italiani molto stretti i valori umanitari dell'accoglienza, ma e rivendichiamo il lavoro fatto in questi anni, abbiamo indicato la strada dell'Unione Europea, ora bisogna rendere effettivo il principio di condivisione dell'onere dell'accoglienza. Siamo rispettati nel mondo come un paese che è riuscito a gestire situazioni difficili mostrando efficienza, sicurezza, capacità di accoglienza e contemporaneamente anche in un certo senso indicando la strada all'Unione Europea. Voglio che nessuno di noi dimentichi il fatto che se l'Unione Europea ha una strategia e un'agenda, sia pure a nostro avviso ancora del tutto insufficienti in materia di immigrazione, questo nasce soprattutto per iniziativa italiana. Primo vertice che parla di immigrazione, un vertice straordinario, si svolge nel maggio del 2015 su iniziativa del Presidente del Consiglio italiano. Il Migration Compact nasce su iniziativa italiana. L'intesa che abbiamo fatto alcuni giorni fa con le autorità libiche, con tutte le difficoltà della sua attuazione, è stata poi ripresa a livello europeo. E ci aspettiamo dall'Europa molte altre disponibilità e decisioni che rendano effettivo il principio di condivisione dell'onere dell'accoglienza da parte di tutti. Ancora restiamo sull'Italia, oggi collocati i bot a 12 mesi, il tasso resta per fortuna sui minimi, praticamente negativo, cioè si prestano soldi all'Italia, al debito italiano, e in cambio si ottiene un valore nominale più basso di quello che si è prestato, meno 0,24%, segnati titoli per 6 miliardi e mezzo di euro, la domanda era di 10 miliardi, quindi almeno da questo punto di vista continuano le buone notizie per il finanziamento del debito italiano. Uno mi dice, ma perché, la domanda di solito che arriva è, ma perché uno accetta di finanziare l'Italia e perderci? Beh, semplicemente perché evidentemente ritiene più sicuro questo tipo di finanziamento, a parte il fatto che molte sono anche banche e c'è il tema dei criteri contabili quando tu hai titoli di Stato in pancia, sostanzialmente perché i rendimenti della Germania sono ancora più negativi, così come quelli della Francia, e uno va per, tra virgolette, meno peggio piuttosto che scommettere evidentemente sulla borsa o su altre forme di investimento. L'altra buona notizia di oggi riguarda la produzione della nostra industria, perché a dicembre ha fatto più 3,4% rispetto a dicembre 2015, nel periodo trimestre, quindi ottobre-dicembre, ha fatto più 1,3% rispetto al trimestre precedente. E tra l'altro nell'intero 2016 la produzione industriale è cresciuta dell'1,6% come dato annualizzato al netto degli effetti del calendario. E tra l'altro i beni strumentali sono quelli che sono cresciuti di più, mentre i beni a consumo per i beni hanno fatto più 3,7%, i beni strumentali, i beni a consumo sono praticamente fermi. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Chiude l'anno in volata la produzione industriale italiana, che a dicembre del 2016 ha segnato un aumento del 6,6% rispetto all'anno prima. Dall'Istat arriva quindi un buon segnale per la manifattura, un segnale inatteso, facciamo meglio di Francia e Germania, con una crescita della produzione nel 2016 pari all'1,6%, che è il miglior incremento annuale dal 2010. Ci sono elementi che inducono a un moderato ottimismo, per esempio il rafforzamento della produzione riguarda da praticamente tutti i settori, con la sola eccezione del tessile. Il buon andamento poi si lega anche alla ripresa delle esportazioni extra UE, una ripresa che abbiamo già visto negli ultimi mesi del 2016. Che cosa dobbiamo aspettarci? Beh, abbiamo detto che i segnali sono confortanti, ma come sappiamo ne servono altri per poter davvero consolidare questo ottimismo. Peraltro, secondo alcuni centri studi, già il mese di gennaio farà segnale una correzione al ribasso di questo indice, quindi bisogna avere ancora un po' di pazienza. Però possiamo aggiungere un elemento: il buon dato della produzione industriale nel 2016 aprirà la strada al rialzo delle stime sul PIL sempre per il 2016. Una maggiore crescita da 0,8 a 0,9% sembra già essere acquisita e non si esclude si possa arrivare a un PIL che farà segnare più 1%. È un risultato che tra l'altro potrebbe alleggerire la manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro che il nostro governo si prepara a varare per adeguarsi alle richieste della Commissione europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Allora, eccoci dopo due buone notizie alla classifica delle cattive notizie, però insomma piove nel nord Italia, tempo non bello anche in altre parti della penisola e noi ci adeguiamo, andiamo al quinto posto. Oggi riusciamo anche a percorrere tutto lo stivale, che delle volte qualcuno ci dice ma sempre il sud, purtroppo noi le notizie raccogliamo e queste sono. Comunque andiamo, ne abbiamo un po', perché partiamo bassi dal quinto posto e siamo a Palermo. Che cosa è successo a Palermo? A Palermo ci sono state segnalazioni, decine di segnalazioni di disservizi alla RAP e al comune. Cos'è la RAP? Vuol dire Risorse Ambiente Palermo, sostanzialmente è il dipartimento che si occupa della pulizia delle strade. Allora, che cosa decide il comune e che cosa chiede il comune alla RAP? Devono lavorare meglio e quindi la SPA nel nuovo piano dello spazzamento, si chiama così, prevede anche la localizzazione non tanto del personale ma dei mezzi attraverso un sistema GPS sui quali si muove il personale. Perché questo? Perché non vai a localizzare la persona, questo sarebbe illegale, ma almeno il mezzo, e quindi rendere più difficile il fatto che qualcuno dica io non potevo pulire quella strada perché stavo ponendo un'altra strada. Tra l'altro la squadra degli spazzini della RAP ha più o meno 250 persone. La riorganizzazione, ripeto, sono arrivate centinaia di segnalazioni di strade non pulite, di aree lasciate completamente allo sbando. La riorganizzazione che cosa prevede? Prevede anche che gli spazzini vengono suddivisi non per itinerari, cioè vengono suddivisi per itinerario e non più per ambito, cioè fino adesso chi si occupava della pulizia delle strade aveva una zona da tenere pulita, e quindi se arrivava la segnalazione che una strada di quella zona non era pulita, non era stata raccolta i rifiuti, lui poteva tranquillamente dire, come sempre è avvenuto, che stava in quel momento spazzando un'altra strada nella stessa zona. Con il nuovo piano cosa succede? Ognuno avrà un tracciato con delle vie specifiche da pulire e il percorso sarà tracciato, ossia il GPS permetterà di capire dove si sta muovendo il mezzo. Non mi sembra una cosa così rivoluzionaria nel 2016, tant'è che dal comune fanno sapere non ci sarà nessun controllo satellitare sugli spazzini, ma solo geolocalizzazione dei mezzi, dei cassonetti, dei cestini di gettacarte e delle campane di vetro. Questo consentirà di avere un'efficienza dei servizi e un controllo tecnico e constatare la funzionalità dei mezzi attuali, attività tipiche di una moderna azienda che eroga servizi, ottimizzando anche l'impiego delle risorse umane, come già attuato in moltissime altre città d'Italia. Oh, dice, vabbè, qual è la notizia, Barisoni? La notizia è che sono insorti i sindacati perché contestano la riorganizzazione del lavoro. E tra l'altro i rientri pomeridiani e i turni più lunghi hanno lanciato un ultimatum all'azienda: chiarezza sui conti, perché il problema è sempre altro. La Fit CISD scrive: pensino alla salute finanziaria dell'azienda, nuovo rischio fallimento. No, mi dispiace, pensano e devono pensare sia alla salute finanziaria dell'azienda che alla produttività dei suoi dipendenti, anche perché, ripeto, non è nata dal nulla, è nata da centinaia e centinaia di segnalazioni di strade non pulite. E è singolare che uno con un tipico benaltrismo di questi casi dica non è questo il problema è ben altro. No, il problema è anche quello, è anche capire quanto lavorano i tuoi dipendenti e quindi gli operatori ecologici, come si chiamano in gergo. E invece no, la Fit CIS continua... prima la vicenda dei furbetti temporaneamente nei donei, il problema ce l'hanno con il medico competente aziendale, la contrapposizione tra il CDA aziendale e il medico competente aziendale, e per quello che ci riguarda il controllo, questa è bellissima, perché nel comunicato sindacale viene anche scritto a un certo momento: il controllo sullo spazzamento per quello che ci riguarda potrebbe pure essere eseguito dalle sale operative delle forze dell'ordine, non temiamo questo tipo di attività, piuttosto però vorremmo parlare del fatto che le somme dovute per il contratto di servizio non giungono alla RAP perché l'amministrazione non riesce a recuperarli dalla Tari, tanto che attualmente il debito verso l'azienda è prossimo ai 50 milioni. Voglio dire, tutto, ma ci rendiamo conto? L'azienda vuole semplicemente mettere dei geolocalizzatori sui cassonetti e sui mezzi, e il problema è sempre un altro: il controllo addirittura può essere eseguito dalle sale operative delle forze dell'ordine, non temiamo questa attività, cioè perché a Palermo le forze dell'ordine non hanno niente da fare che non controllare che l'operatore ecologico stia effettivamente pulendo la strada. Ma dai, terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scrivare con Pefalina, come antifurto, per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Ecco, qui si perdono i contatti non col terapia tapioca, ma si perdono i contatti con i mezzi di pulizia delle strade. Lo dico perché ci sono decine di provvedimenti disciplinari avviati dalla municipalizzata dei rifiuti che hanno colto dipendenti beccati lontani dal luogo di, lontano dal luogo di servizio. Il mio, diciamo, affetto, per modo di dire, va all'operatore ecologico che avrebbe dovuto pulire viale dei Picciotti qualche anno fa. L'hanno beccato con il mezzo aziendale, perché uno se lo porta pure a casa il mezzo aziendale, con il mezzo aziendale davanti a casa sua a 10 chilometri, dicesi 10 chilometri a Palermo, a 10 chilometri da viale dei Picciotti, e sul retro del camioncino aveva un divano che gli serviva per casa sua. Allora, ci sono due possibilità: o il divano l'aveva raccolto in via dei Picciotti, in viale dei Picciotti, e con un, cioè, in maniera quasi stacanovista aveva deciso di portarselo a casa sua per evitare di intasare le discariche, oppure stava banalmente trasportando il divano a casa sua con il mezzo per pulire le strade. Poi non so come questo divano sia arrivato a casa, perché qualche dubbio me lo pongo. Comunque, questo è il problema che i sindacati, a mio avviso, dovrebbero affrontare a Palermo per quello che riguarda l'antezza urbana. Ma dico, ma in quale paese uno che viene beccato con il mezzo per pulire la strada, in una strada non pulita, a 10 km di distanza, nel retro del camioncino un divano, è ancora al lavoro? No, qua si aprono casi sindacali, beh, è tutto normale. Adesso mi prendo un minuto di pausa, anzi due minuti di pausa, c'è il metodo della pubblicità, perché poi dobbiamo restare purtroppo su Palermo. Invito gli ascoltatori, a partire dagli ascoltatori palermitani, a porre molta attenzione a quello che sta avvenendo in regione, perché, attenzione bene, c'è la finanziaria, mancano pochi giorni, perché in Sicilia c'è il Parlamentino siciliano, ARS, Assemblea Regionale Siciliana, e hanno la loro finanziaria. C'è la finanziaria in discussione. Sto per dare una notizia bomba: è partito l'assalto alla diligenza della finanziaria siciliana, ma ne parliamo con calma dopo il meteo e la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Allora, continuiamo al quarto posto. Devo restare sul quarto e sul terzo perché, diciamo, vanno di pari passo, viaggiano in due, ma non quella cosa lì, un'altra, su Palermo e sulla Regione Sicilia. Allora, la Regione Sicilia ha un bilancio complessivamente dato di 20 miliardi di euro, ok? No, lo dico perché è importante, le cifre ogni tanto bisogna tenere a mente, 20 miliardi di euro. Secondo voi, in una regione che ha come prospettiva industriale il turismo, da sempre lo diciamo, il vero giacimento nascosto di questo paese, il vero giacimento che il nostro mezzogiorno non riesce a sfruttare, quanto è la Sicilia, ha tutti gli elementi per essere un Eldorado del turismo, quelli naturali, quanto spenderà con un bilancio di 20 miliardi la Regione Sicilia per la manutenzione e la cura dei propri 110 siti tra musei e parchi? 3.600.000, stavo per dire mila lire, e 600.000 euro, 3.600.000 euro, con la conseguenza che i dirigenti dei musei e dei parchi archeologici hanno lanciato un grido d'allarme: non abbiamo i fondi nemmeno per comprare lampadine. Questo al Museo Archeologico Paolo Orsi di Siracusa, dove piove dentro, a Villa del Casale, un altro museo, è piena di erbacce, Piazza Ermerina è irraggiungibile con i mezzi pubblici perché hanno tolto il minibus per i turisti. Io quando sento queste cose vado nei pazzi, capisci? Perché di tutti i risparmi è come quando nelle aziende devono fare i piani di risanamento e iniziano a tagliare le centraliniste o le figure minori, no? Ma taglia la parte alta, su, poi puoi tagliare anche le parti basse. Andiamo avanti. Allora, hanno tolto il minibus per i turisti. Al teatro antico di Taormina non ci sono i fondi per mettere in sicurezza la parte alta del teatro, se qualcuno l'ha visitato resta inaccessibile. La cattedrale di Agrigento sta franando. Poi ci sono 200 siti minori che l'Associazione Sicilia Antica denuncia essere in pieno degrado, da Camarina a Ragusa, che è a Ragusa, a Villa Napoli a Palermo, dall'Acropoli di Morgantina all'area ecologica di Eloro a Villa Aliata di Pietragliata, che è un posto bellissimo, sempre a Palermo. Comunque, le due voci per il funzionamento delle sovrintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i centri regionali, i parchi culturali, e per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari dei musei regionali ammontano in tutto a 3 milioni e 600 mila euro. Erano 4 milioni e 300 mila euro nel 2015, nel 2010 almeno erano 9 milioni di euro. Poi la cosa pazzesca è che se uno va a vedere la rubrica del bilancio dell'assessorato dei beni culturali in Sicilia, ci sono delle voci a zero, oppure vi è scritto PM. Ora, ci abbiamo un po' lavorato, ma che vuol dire sto PM? PM, sai, in questo periodo, quando parli anche dei bilanci regionali, ti viene in mente il PM. No, PM sta solo per memoria. Di chi? Beh, dei posteri, beh, solo per memoria. Per esempio, alla voce spese per le divise dei custodi, che un custode adesso non è che deve girare con gli alamari e tutto, però insomma una divisa gliela dovete dare, sapete che la voce è PM, cioè zero. Spesa per la tutela, la custodia, la manutenzione e il restauro dei beni monumentali naturali, sempre zero, PM. E come quella per interventi per opere di sicurezza e attrezzature antifurto nelle zone archeologiche, ma che volete che sia, e non ruba nessuno in Italia nelle zone archeologiche, PM. Invito gli ascoltatori a darmi qualche altra risposta sull'acronimo PM. Comunque, tutto questo, la voce beni culturali muove 200 milioni di euro l'anno, ma attenzione, questa voce riguarda anche le sovrintendenze e basta malapena per pagare gli stipendi dei dirigenti, funzionari, custodi e le spese di funzionamento dell'assessorato. No, noi stiamo parlando dei soldi che non per spesa corrente ma per investimento, diremmo se fossimo un'impresa, ecco, 3 milioni e 600 mila euro per tutto. E dice, vabbè, ma la regione Sicilia ha tali ristrettezze economiche. Attenzione, perché la ex tabella H, di cui ci occuperemo al terzo posto, tabella H come horror, perché è quella che prevede i contributi alle associazioni esterne. Quanto ha previsto in questi anni? 25 milioni di euro. Allora tu ti chiedi, ma com'è possibile che per mantenere i 110 siti e fare investimenti tu abbia 3 milioni e 600 mila euro e per le associazioni esterne, tabella H, tabella horror, 25 milioni di euro, 8 volte in più di quanto spendi per mantenere e curare i tuoi beni culturali? Perché, ed è un dettaglio, la tabella H, riguardando i contributi alle associazioni esterne, è molto cara ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana, perché è quella che permette anche di finanziare interessantissime iniziative sul territorio. E questo ci porta paro paro al terzo posto. Vedo che già qualcuno mi scrive PM, post mortem, oppure povero mink, oppure povero meridione, oppure porca miseria. Ecco. Vabbè, andiamo al terzo posto. E parliamo della tabella H. Eccola qua la tabella H, perché non è scomparsa, C'è una, in Italia le cose non scompaiono mai, nel senso, dice poi il gatto pardo, che ci insegna da tempo, restano. Allora, la tabella H in teoria è scomparsa, però sta per chiudersi la finanziaria. Si chiama proprio finanziaria la legge di bilancio regionale. Questa sarà una manovra politica, hanno detto i deputati al governatore Crocetta, e quindi nelle commissioni del parlamentino siciliano sta arrivando e passando di tutto. Lunedì scadono i termini definiti per presentare gli emendamenti prima che il testo vada in aula, ma sarà comunque un assalto alla diligenza e anche dirigenza. Allora, c'è di tutto: assunzioni in enti locali e regione, aumento dei gettoni per gli assessori di piccoli comuni, riapertura dei prepensionamenti per alcuni dipendenti regionali, norme come l'esenzione del ticket sanitario per chi non ha un lavoro, il taglio dell'IVA per gli alberghi e dell'IRAP per le imprese, e poi gli immancabili contributi all'ente con lo sponsor di turno. Allora, ricordate la puntata di due giorni fa sulla Ryder Cup, in cui dicevamo, ma se lo Stato mette una fideiussione per un evento che deve generare 500 milioni, stando alle stime di quello che ha fatto in Galles e in Spagna, di cosa ci lamentiamo in un paese che dà soldi a pioggia per qualunque manifestazione locale, perché quella porta consenso? Allora vediamole. Il COPEM. Allora, se fosse in Veneto COPEM sarebbe un'altra cosa. Comunque, Comitato Permanente del partenariato euro-mediterraneo dei poteri locali e regionali, no, non ce la posso fare stavolta. Comitato permanente del partenariato euro-mediterraneo dei poteri locali e regionali, ma chi c'è dentro? Il sultano? Allora, e poi c'è l'istituto di incremento ippico. Allora, il primo è caro al PD, il secondo sembra vicino al centrodestra. Vogliono finanziare perfino i nuovi festival musicali. Cioè, peggio della vecchia tabella H. Questo lo dice il presidente della commissione bilancio, Vincenzo Vinciullo, che ha detto: io passo all'opposizione perché Crocetta non difende Siracusa. Vediamo alcuni di questi casi al di là del Copem e quant'altro. Allora, Nello Musumeci e Domenico Turano, firma loro infatti l'emendamento che prevede la creazione di un ufficio stampa della regione. E qui qualcuno si ricorderà della vicenda dei 20 giornalisti, tutti presi al ruolo di caporedattore dall'allora, poi indagato, finito pure in carcere, Cuffaro, licenziati, e facciamo il plauso a Crocetta per i licenziamenti. Ma non si poteva sentire 20 giornalisti per l'ufficio stampa della regione, tutti con la qualifica di caporedattore. Eh no, però l'emendamento a firma di Nello Musumeci e Domenico Turano prevede infatti la creazione di un ufficio stampa della regione, 20 posti a concorso. Dice, vabbè, con una riserva per chi ha già lavorato nell'ufficio stampa, cioè i giornalisti assunti dal governo Cuffaro senza concorso e tutti con la qualifica di caporedattore, che è quella più alta del contratto nazionale, poi licenziati a Crocetta, hanno la corsia preferenziale. Abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto i giornalisti, dice Musumeci, cioè l'asso stampa, che con una lettera a firma del segretario regionale Alberto Ciccero ha caldeggiato la riserva, cioè che si vada a pescare in quei venti. Devo dire che il presidente del Consiglio regionale dell'asso stampa, Giancarlo Macaluso, dice: no, siamo d'accordo per i concorsi per l'ufficio stampa, ma senza riserve per nessuno, sbagliato chiedere corsie preferenziali. E il giallo si infittisce nell'asso stampa. E poi via libera alla proposta del DEM Giovanni Panepinto di finanziare un corso di formazione per 200 neolaureati in giurisprudenza ed economia, poi i comuni potranno assumerli. Ah sì, lo dice lui. Il socialista Giovanni Di Giacinto ha invece fatto approvare la stabilizzazione dei 6.000 precari ASU, e in commissione bilancio arriveranno emendamenti a firma di tutti i gruppi per far assumere 1.800 ex sportellisti al Ciapi di Priolo. Poi, nemica, riapertura dei prepensionamenti con le regole pre-Fornero per un centinaio di regionali che ne avevano i requisiti 2 anni fa, e poi i costi della politica, perché lì è come col salmone, tutto va al contrario in Sicilia, nel parlamentino. Cioè, Santi Formica ha fatto approvare un emendamento che aumenta il gettone per gli assessori dei 90 comuni con meno di 5.000 abitanti, che passerà da 180 a 500 euro al mese. Ora, non ho niente in contrario, però faccio notare a Santi Formica che, santo Dio, nella maggior parte della penisola, i comuni sotto i 5.000 abitanti, chi fa l'assessore ha veramente un rimborso spese. Abbiamo elogiato moltissime volte il lavoro di tanti assessori comunali, di sindaci, di paesini più piccoli, perché lo fanno praticamente gratis. Ora, va bene tutto, ma portarlo a triplicarlo non si capisce perché. Ma andiamo sul Copem, Copati direbbero in altre parti del paese. Allora, i democratici hanno proposto una norma per dare 20.000 euro al Copem, che sembrava mai su un binario morto, sto comitato permanente del partenariato aeromediterraneo dei poteri locali e regionali, ma saltano fuori anche altri fondi. Per esempio, la norma di Vinciullo e Di Giacinto taglia 25 milioni di euro dalla zona franca della legalità di Caltanissetta, insomma, che era importante la zona franca della legalità, per darli alla creazione di cantieri di lavoro a favore degli enti di culto. Ma perché? Perché? Io con massimo rispetto per qualunque ente, per qualunque culto, ma perché bisogna pagare i cantieri di lavoro per gli enti di culto? E non ho ancora finito. Ho il traffico, mi manca. Secondo e il primo posto. Focus Economia. Andiamo al secondo posto e andiamo a Bari. Allora, nel 2011 l'allora presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, la definì un'opera meravigliosa, bontà sua, e qui mi fermo. È la nuova sede del Consiglio regionale, che forse sarà finita nel 2017, c'è chi dice 2018, vediamo, il problema è quanto cavolo è costata. La nuova sede del Consiglio regionale. Allora, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è avvenuta a fine 2011. No, ma io dico, ma nella regione Puglia il problema principale è la nuova sede del Consiglio regionale. Vabbè. Affidata a Lati de Bar Guastamacchia Monsud. Vabbè, è la Guastamacchia che sta gestendo i lavori del cantiere, che è la stessa azienda che ha concluso i lavori nel palazzo a fianco, quello che è già costato 34 milioni dal 2010 al 2012, che oggi ospita vari assessorati, sanità, trasporti e ambiente. E invece ci vuole anche il nuovo Parlamento pugliese, sta mania dei parlamenti, guarda. Allora, ma regalategli un kit di quelli da Natale per i bambini, fagli fare il parlamentino, non se ne può più. Allora, nel 2012 iniziano i lavori, e subito iniziano i ritardi, perché c'è da bonificare gli ordigni bellici. Sul cantiere si sono susseguiti tre RUP. Oggi è tutta la giornata di acronimi. Responsabile, io mi sono RUP qualcos'altro, responsabile unico procedimento, e quattro varianti sul progetto originario. Questo causa altri tre anni di ritardo. E a quel punto si arriva poi a maggio 2015, l'allora presidente del Consiglio regionale Onofrio introna, dice a 2016, estate 2016 è pronto il Parlamento regionale pugliese, col cavolo, a ottobre 2016 arriva una nuova deadline, entro la fine del 2017, l'opera è completata per l'85%, poi ci vorrà il tempo per i collaudi e c'è chi teme che si arrivi al 2020, speriamo di no. Ma io mi pongo qualche domanda che giro voi. A che cosa serve una gigantesca fontana da 100 metri accanto alla sede di un consiglio regionale? Per far fare il bagno ai consiglieri? Qualcuno direbbe per affogarli, ma non stiamo a questo. 100 metri, a niente. Tant'è che riconoscono, beh, insomma, il progetto iniziale era datato e un po' eccessivo. Lo stiamo razionalizzando per ottimizzare anche gli spazi. Un po' eccessivo. Allora, al posto della fontana adesso faranno un anfiteatro per i convegni all'aperto. Vabbè. Erano previste, un po' eccessivo, palestre, aree fitness, foresteria e biblioteca. Ma che è? Un centro benessere, Merano. No, però mancavano nel progetto originario i monitor per la visualizzazione delle votazioni del consiglio. E chi se ne frega? Andiamo per l'alzata di mano. Ognuno alza la mano. Le postazioni dei computer per i consiglieri. E poi gli spazi erano previsti per 680 dipendenti. Faccio banalmente notare che in consiglio non erano più e non sono più di 217. Cosa ci fate con gli altri 500 posti, 400 posti rimasti liberi? Beh, ma era appena. E quindi costerà 50 milioni invece dei 40 previsti, che sono sempre troppi. Un po' eccessiva la fontana da 100 metri, l'area fitness, la foresteria, la biblioteca. Vabbè, andiamo al primo posto e ci spostiamo molto al nord, ma solo diciamo a livello geografico, perché tanto abbiamo detto molte volte che purtroppo in queste cose l'Italia è molto molto corta. And the winner is... Beh, non potevamo non dare il primo posto oggi a Savona, ma è la Liguria... ci fornisce sempre, grandissimi spunti. Allora, ho veramente una difficoltà a leggerla tutta questa, che c'è di tutto, prostituzione, ricatti al verduraio, quanto, no, perché non ce la posso fare in... Allora, andiamo sul GR24, vi do intanto la chiusura di borsa e poi aspettiamo Savona, perché il vice prefetto è finito anche sui giornali. Ma oltre che il giro di prostitute per avere la patente, per avere l'autorizzazione, c'era pure quello che andava a farsi dare la frutta secca dal verduraio gratis, la riparazione gratis della macchina, una roba. Ho capito che sono liguri, però qua siamo andati oltre ogni livello. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ci risentiamo dopo il GR24. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Cerchiamo l'Europa delle opportunità. Più viaggio, più incontro persone della mia età che capiscono il mondo come il nostro mondo. Non è il mio paese, è la nostra Europa. Cerchiamo l'Europa dei valori. Io sono pro-europeo, sono uno che adora l'Europa. È una parte del mondo che mi affascina. Cerchiamo l'Europa dell'innovazione. C'è bisogno di informare e come possiamo aiutare i cittadini, i giovani, i ragazzi a capire che cosa è l'Unione Europea e cosa gli può offrire. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni sabato alle 12 all'Altra Europa per andare insieme a cercare e a scoprire l'Europa delle persone, delle storie e delle possibilità. L'Europa c'è, facciamola nostra. In collaborazione con Euronet Plus, il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti, era rimasto fuori il primo posto che va a Savona. Mi hanno scritto nel frattempo liguri, guardi che alcuni di questi non erano liguri. Ho capito, adesso li diciamo tutti. Allora, c'era perfino una casa d'appuntamento controllata, tra virgolette, dall'ispettore di polizia Roberto Tesio e gestita da una maîtresse, Gabriella Di Salvo. Questo Tesio è anche un, io non li voglio più chiamare furbetti del cartellino, un truffatore del cartellino. Timbrava in questura e durante le ore di servizio raggiungeva l'appartamento in pieno centro di Savona, controllava le persone, addirittura accedendo allo SDI, cioè alla banca dati del Ministero degli Interni. Tant'è che oltre alla corruzione, il favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina, perché come racconteremo adesso dava pure in cambio di favori permessi di soggiorno, c'è rivelazione di segreti istruttorio e gli si contesta anche la truffa ai danni dello Stato. Lo stesso Tesio era stato coinvolto in un'indagine sulle presunte, mica tanto presunte, infiltrazioni dell''ndrangheta nel Ponente Ligure. Presunte per chi? È anni che ne parliamo, comunque compresa Sanremo, visto che è periodo di Sanremo. Comunque, andiamo avanti sulla vicenda. 319 pagine di ordinanza cautelare, con la quale il GIP Fiorenza Giorgi ha arrestato 6 persone. Carlo Della Vecchia, così specifico, originario di Napoli, come Andrea Santono Staso. Allora, Carlo Della Vecchia, funzionario prefettizio. A lui piaceva essere ricambiato con favori sessuali. Aveva chiesto a un imprenditore savonese l'assunzione di una parente. L'industriale si era rivolto a lui per uno sconto sulla sospensione della patente. Lui in cambio dice sì, io ti faccio lo sconto, ma tu mi assumi la parente. Addirittura Della Vecchia e Tesio mettono in campo uno stratagemma. Gli fanno credere che lui rischia la sospensione a 2 anni, era meno. Così l'altro è più disposto ad assumere la parente, tant'è che il funzionario è chiamato a rispondere di corruzione e peculato, oltre che favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E la PM Chiara Venturi parla di un'agenzia di affari a cui si rivolgeva chiunque senza provare strade legali, una sorta di corpo deviato dello Stato al cui vertice era il vice prefetto Andrea Santonastaso, 65 anni, appunto originario di Napoli, come il Della Vecchia, da tempo però residente in Liguria. Attualmente è commissario straordinario al comune di Borghetto Santo Spirito, a cui va tutta la nostra solidarietà. Prima lo è stato a Spotorno, tutti i posti ameni. Allora, lui è accusato di robetta e corruzione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E lui lesinava questi favori, però il giorno dopo passava l'incasso. E devo dire che è veramente, oltre al reato, è anche un barbone. Poi mi quereli se vuole, ma barbone nel senso figurato del termine. Perché questo passava l'incasso. Andava dal meccanico, si faceva fare la riparazione gratis della macchina. Si faceva offrire le cene in ristoranti, le visite mediche dei dottori, le analisi senza pagare. E poi passava dal verduraio a prendere la frutta secca. Io avrei preferito le prugne, forse, visto diciamo l'intero... Immagino ci fossero anche le prugne nella frutta secca che prendeva Santonastaso. In un altro passaggio dell'ordinanza si legge la scoperta di uno squallido giro di persone dedite al malaffare nel quale i pubblici impiegati avvilivano, tra virgolette, prostituivano le loro funzioni per soddisfare le esigenze di chiunque, italiano o straniero, incensurato o pluripregiudicato, fosse in grado di procurare loro una qualche utilità, tant'è che indagata anche su incarcere sono finiti il poliziotto ma anche il marocchino Adel Salah. Agli arresti domiciliari il vice prefetto, il funzionario, la maîtresse e un albanese che si chiama Antoniel Dibra, verduraio, proprio indagando sul giro di droga, ecco perché passava dal verduraio, il funzionario, no scherzo, su questo scherzo, il funzionario indagando sul verduraio si sono accorti che spacciava droga dell'intero giro. E ripeto, c'erano appunto anche le maîtresse. La cosa più incredibile è che la squadra mobile ha notificato 25 avvisi di garanzia, ma precisa che ci sono altri cittadini comuni che partecipano al sodalizio. Nella rete degli affari rientravano i finti contratti di lavoro, e qui vorrei un attimo di riflessione, e anche i matrimoni combinati dall'ispettore di polizia Tesio e dal Adel Salah. Ora, io capisco che la sessualità sta cambiando, che il mondo cambia, è un'epoca in cui le donne anche mature sono oggetto di desiderio, le chiamano MILF, le chiamano cucco, tutto bene, sono contento per le donne mature e per il cambiamento dei gusti, ma mi dovete spiegare, va bene la MILF, va bene la cougar, come è stato possibile che due attempate signore savonesi, ormai diciamo al di là degli anni, che versavano in estrema condizione di indigenza, sono state ripagate con 8.000 euro ciascuna, hanno detto sì davanti a un ufficiale dello Stato civile a due marocchini che neppure conoscevano, che non avevano mai visto sullo stesso, mai vissuto sullo stesso tetto, li hanno sposati in modo che loro potessero prendere la cittadinanza, tutto combinato dalla cricca che stavo raccontando. 8.000 euro ciascuna, allora 8.000 non mi sembra neanche tanto, io spero che almeno le due signore, lo dico con massimo rispetto, qualche soddisfazione se la siano presa, alla faccia delle MIF, ma c'era di tutto, e complimenti quindi a tutti, da Roberto Tesio, Carlo Della Vecchia e Andrea Sant'Anastaso, le uniche vittime, forse vittime, magari nemmeno vittime, sono le due attempate signore. Complimenti al germinaio di Savona. Cioè, guarda, le due anziane sposate per procura con due marocchini in cambio di 8.000 euro, ancora vedi che si impara sempre questa classifica, si impara sempre. Dottoressa Federica Storace, fondatrice assieme a Valeria Cambrea di Drex Code, buonasera. Sì, buonasera. Sì, non l'ho chiamata sul tema, diciamo che abbiamo appena chiuso, vorrei eliminare, no perché l'ha sentita un attimo bloccata, no non si preoccupi. Andiamo sul Drex Code, si scrive con la X in mezzo, che avete fondato nel 2014. Cos'è, quanto fattura e chi vi ha aiutato? Allora, Drex Code è la prima piattaforma online in Italia dove è possibile noleggiare abiti delle ultime collezioni firmati da top designer, e con l'obiettivo, diciamo così, di risolvere il problema femminile del dress code nelle occasioni speciali, che sono un po' quelle occasioni dove noi donne vorremmo indossare sempre un abito diverso. E noi diamo appunto una cioè invece che comprarlo lo affitto. Esatto, invece di comprarlo l'affitto, ma invece che indossare una cosa qualsiasi, indossi un abito firmato da top brand. Magari quando mi devo sposare con il marocchino che ho appena conosciuto, certo. Esatto, ad esempio, oppure anche in altre occasioni. Sono comunque appunto abiti che in quel momento si trovano a prezzo pieno in boutique, che possono andare dagli 800 ai 5.000 euro. E l'affitto quanto costa? E l'affitto costa il 10% più o meno. Cioè dagli 80 ai 500 euro? Perfetto, dagli 80 ai 500 euro. E quindi diventa una cosa accessibile, diciamo così, alla stragrande maggioranza. Senta, lei cosa faceva prima di lanciare l'iniziativa? Lei e Valeria Cambrea? Sì, esatto. Entrambe lavoravamo in grandi multinazionali. Ho fatto prima Nestlé, poi Danone, poi Kraft. Sono cresciuta, diciamo, nel marketing. E Valeria più o meno anche ha un background simile. Ci siamo conosciute in azienda, infatti. E poi abbiamo deciso, insomma, di lanciare questo business dopo aver, insomma, valutato i trend di mercato, il trend online, il trend del fashion. Se sento un altro inglesismo, interrompo l'intervista, dottoressa. Senta, chi vi ha aiutato e quanti siete adesso e come va il giro d'affari? Allora, dunque, inizialmente, proprio inizio, noi abbiamo investito i nostri risparmi, quindi abbiamo rischiato i nostri soldi. Poi siamo andati alla ricerca di investitori e li abbiamo trovati, e quindi attualmente abbiamo 4 investitori istituzionali nella nostra compagine sociale, e quindi stiamo andando avanti. Attualmente siamo 7 persone. E insomma, pian piano il team. E quanti iscritti avete al sito? Che non vuol dire che uno iscritto per forza non legge, sì. Ma Allora, abbiamo una community di più di 150.000 donne, tipo 160, una cosa del genere, tra iscritti e follower sui social network, che aumenta ogni giorno. Allora, l'unica critica che le posso fare è, pensate anche a noi maschietti, no? Anche noi ogni tanto forse abbiamo bisogno di noleggiare, non con la stessa forse... spesa ricorrenza. Infatti non è l'unico che fa questa critica, sì, ce lo richiedono, in effetti ce lo richiedono. Può essere un secondo step. Va bene, a proposito degli inglesismi che non volevo. Un secondo passo in avanti. Allora, esatto. In bocca al lupo a lei, chiaramente, lei è l'altra fondatrice, che è Valeria Cambrea, ai dipendenti, e grazie ancora, e speriamo appunto che lo allarghiate anche a noi. Oh, adesso andiamo sulla borsa e poi intervistiamo il presidente della fondazione Monte dei Paschi di Siena. Adesso vedo il dato del banco BPM, chiude il 2016 in rosso per 1.600.000.000, con le rettifiche sui crediti per quasi 3 miliardi, e il titolo ha subito oggi in borsa, non è l'unico, ma i titoli bancari che oggi hanno presentato i conti sono andati male. B per Banca -7,80, UBI Banca -5,70, Banco BPM -5,30%. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, andiamo sulla borsa, che oggi vuol dire appunto i dati di bilancio. Vedo che alcuni liguri mi contestano. Non c'era nessuna offesa verso i liguri, però è vero che nel passato ci siamo occupati anche della Liguria, come della Lombardia, ci mancherebbe, e anche del Veneto. Alcuni mi contestano che le MILF non sono necessariamente di là con gli anni, possono essere anche madre giovani. Guardate, aspettate un quarto d'ora, il tema diventa di estrema attualità. Io vorrei ancora fare la borsa. Per ora è parlare con Claric del Monte dei Paschi di Siena. Dicevo, i conti B per Banca -7,80% in borsa, ha deluso il bilancio 2016, peggiore di quello del 2015 e non di poco. L'utile -90%, 14 milioni, cedola a 6 centesimi contro i 10 centesimi del 2015. UBI Banca, anche qui conti con una perdita di 830 milioni contro un utile di 116 milioni nel 2015. Il CDA comunque mantiene il dividendo a 11 centesimi per azione, in linea con quello del 2015. Il titolo però perde 5,70. Banco BPM, abbiamo appena dato i conti, e il titolo comunque prima della diffusione dei conti aveva perso con un 5,32%. Male oggi anche Telecom Italia, -2,50, Fineco Bank -1,50, ma il risparmio gestito bene si era mosso. Unipol -1,30, Leonardo -1,25%. E poi Buzzi Unicem invece +2,70, Brembo +1,31, Azimut +1%. Migliori e peggiori in assoluto: Geo Equity +15,70, Sintesi +15, Jefran +11, peggiori Novare -12, SME -10 e Credito Valtellinese -8,1%. Non c'è invece la quotazione del Monte dei Paschi, perché Monte dei Paschi è sospeso lo scorso 22 dicembre. Come ricordavo in apertura, l'autorità che gestisce il FTSE MIB ha detto: fateci sapere quando rientrate, nel senso che sennò vi delistiamo. FTSE Russell ha detto: o ritornate in banca entro fine mese o venite esclusi dall'indice. Ricordo che nei 12 mesi precedenti, cioè nel 2016, il titolo ha perso il 72%, ieri diffusi i conti annuali, nel 2016 ha perso 3 miliardi e 300 milioni di euro, dovuti principalmente alle nuove rettifiche sui crediti inesigibili, cioè le sofferenze, per 2 miliardi e 600 milioni di euro, e comunque i crediti problematici e le sofferenze sono a 20 miliardi, ossia il 19% dei prestiti, raccolta in calo, scesa a 105 miliardi, 15 miliardi meno dell'anno prima. E i depositi in conto corrente, si è un po' arrestata l'emorragia, ma sono scesi l'anno scorso dai 59 miliardi a 51 miliardi. Professor Marcello Claric, presidente della Fondazione Monte dei Paschi dall'agosto 2014, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, non so se le sono fischiate le orecchie, ma ieri ci ha fatto sobbalzare sulla sedia la sua dichiarazione, in cui lei ha detto: la lista dei debitori, quella proposta dal presidente dell'ABI Patuelli, fateci sapere chi sono i debitori. Debitori anomali, ho detto mille volte, non c'è nessun problema se uno ha contratto un debito con Monte dei Paschi, lo sta ripagando per un'iniziativa industriale o anche nel caso che un'impresa abbia avuto un contratto, un debito, poi dal 2008 con la crisi è fallita o ha avuto un crollo dell'attività, non ce la fa ripagare. Queste sono cose fisiologiche. Altra cosa è vedere se invece vi sono state delle dei favori inspiegabili. Perché lei è contrario, Clarici? Perché lei dice nelle banche rientra nell'attività privata, nel rapporto. Sì, ma qui la stiamo comprando noi con 6 miliardi e 6 la banca, diciamo, Monte dei Paschi di Siena. Avremo qualche diritto in più o no? E diciamo che io ritengo prevalente anche nell'interesse della banca e della crescita futura di mantenere i normali comportamenti che terrebbe e che tiene qualsiasi banca, e che tra l'altro è obbligata al segreto e alla riservatezza nei rapporti con i clienti. Io dico, se ci sono stati degli abusi o delle situazioni anomale, intanto c'è la magistratura che può indagare. In ogni caso vedrei un fuoco da porre più su chi ha erogato il credito più rispetto a chi l'ha preso. Mm-hmm. Cioè, allora facciamo i nomi di chi l'ha ottenuto, ma anche chi gliel'ha dato? Questo è un aspetto dei dirigenti responsabili della banca, che tra l'altro nei confronti dei quali ci sono state molte anche azioni per danni, sanzioni di Banca Italia, sanzioni di Consob, delle varie vicende. Quindi lei dice facciamo la lista di chi ha erogato certi crediti e non di chi li ha ricevuti? Perché chi ha ricevuto il credito, bene o male, aveva presentato un progetto, un piano industriale che assumiamo in buona fede e riteneva potesse essere finanziato. Se i criteri sono stati invece di grande generosità da parte di chi ha deciso l'erogazione del credito, metterei il fuoco e l'accento anche la colpa su chi ha usato una politica facile del credito. Clarice, facciamola più breve, mettiamo sì. Chi ha erogato e chi ha ricevuto, no? Così vediamo sai perché glielo chiedo? Perché io vorrei un suo commento su una dichiarazione dell'ex presidente Monte dei Paschi, Profumo, che abbiamo fatto risentire, che insomma è abbastanza inquietante, perché lì il problema, quando si parla del Monte dei Paschi di Siena, diciamola tutta, ci sono comportamenti fraudolenti, la magistratura indaga, i vecchi vertici, Mussari, Baldassarri e me ne manca uno dei tre, adesso mi verrà in mente, però c'è anche un problema di rapporti un po' opachi, non lo dico io un po', sentite Profumo da Floris di nuovo. Purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi, parlo della massoneria, poi possiamo parlare di altro, però quando sono purtroppo un animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose, quando ci sono troppe cose che non riesco ma a spiegarmi. Ma ha un nome e cognome la massoneria a Siena? No, nella sua esperienza. Cosa vedeva? Sì, non, ce la racconti la massoneria? No, vedevo e ho visto, ad esempio, delle scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a capire. Cioè, lei eliminava la competenza, il merito, magari rimaneva solo la massoneria, diciamo. Ci arrivava per eliminazione. Restavano le appartenenze. In genere si pensa, quando si parla di Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio Partito Comunista, poi scavi e scopri che c'era una trasversalità, ad esempio. Allora dici, ma come mai c'è questa trasversalità? Qualcuno che è venuto da me mi ha detto guarda, io sono massone, non c'è mai stato, no? Che valore aggiunto ti dà Flavio Carboni che non è nel consiglio di amministrazione, che non, e che valore aggiunto dà? Non lo so, evidentemente darà dei valori aggiunti di legami, di introduzione ad altre persone e così via. Allora, presidente Clarici, lei da quando è arrivato agosto 2014 ha avuto gli stessi sospetti di Profumo? Cioè, guardi, a Siena c'è un'espressione che io ho imparato a conoscere appena arrivato, il cosiddetto groviglio armonioso, no? Armonioso è la causa di tante decisioni. Ecco, cosa c'è dietro a questo groviglio armonioso? Francamente io non ho elementi di nessun genere. Personalmente non ho l'abitudine a fare, chiamiamo, dietrologie, e quindi nel periodo in cui sono stato come presidente della fondazione, pur con anche situazioni qualche volta di contrasto e di polemica con l'ambiente locale, io non ho percepito situazioni anomale, forse nel senso al quale stava alludendo il presidente Profumo, che peraltro forse ha avuto un'esperienza un po' diversa dalla mia. Senta, sì, il groviglio armonioso sicuramente lo era per Baldassari, Vigni e Mussari, non per noi italiani che ci paghiamo 6 miliardi e 600 milioni. Voi però come fondazione avevate il 51%. Quando ci fu l'aumento di capitale del 2011, perché ormai abbiamo perso il conto gli aumenti di capitale del Monte dei Paschi, quello 2 miliardi, per mantenere il 51% la fondazione allora, non la presiedeva lei, si è svenata e non ce l'ha fatta. Comunque tant'è che si calcola che la fondazione avrebbe perso quasi oltre 10 miliardi di euro. Attualmente ha lo 0,1% del Monte dei Paschi. A Siena c'è chi dice, beh, voi non siete più una fondazione con lo 0,1 e non riuscite neanche a più fare il lavoro della fondazione sul territorio. Ma lei sta pensando anche di cambiare lo statuto della fondazione? Ma lo statuto intanto l'abbiamo già cambiato l'anno scorso per adeguarlo agli impegni con il Ministero dell'Economia, quindi non ha bisogno di aggiornamenti. E sicuramente le vicende anche degli ultimi 2-3 anni hanno portato alla sostanziale fuoriuscita della fondazione dal capitale della banca Monte dei Paschi e quindi la fondazione, come altre fondazioni italiane, deve ormai fare soltanto la fondazione ex bancaria. Ma senza quindi, soldi riuscite a fare la fondazione? Ma guardi, noi abbiamo ancora da pagare debiti pregressi, cioè di erogazioni deliberate negli anni passati che arrivano a scadenza. Con le poche risorse che sono rimaste faremo del nostro meglio. Quest'anno erogheremo 4 milioni che per una comunità piccola come quella di Siena non sono più i 180 milioni degli anni d'oro, ma qualcosa di buono si può fare. Ma è vero che a Siena lei non è molto amato? Penso di no, però rispettato sì. Cioè penso di no, cioè pensa di non essere molto amato? Penso di aver fatto in questi anni un lavoro di riordino, di pulizia, anche con decisioni difficili e sofferte che evidentemente erano necessarie ma che hanno lasciato molte insoddisfazioni. Mi dica solo un'ultima cosa che devo chiudere adesso. Un altro aumento di capitale di cui dovremmo conoscere l'entità esatta, comunque sarà una cifra sugli 8 miliardi e mezzo, di cui 6 miliardi e 6 in carico nostro ai contribuenti. Dopodiché la chiudiamo con Monte dei Paschi, secondo lei? In che senso? La chiudiamo, non chiudiamo il monte, la chiudiamo che non ne sentiamo più parlare a quel punto, sì. La banca? Ma io credo che con un ulteriore aumento di capitale, con l'intervento dello Stato e con la politica di risanamento che l'attuale management e anche il precedente stava conducendo, la banca ha dei fondamentali solidi, ha un marchio, una tradizione che consentirà di restare sul mercato. Ma ha fatto bene Renzi tramite Padoan a cambiare il vecchio manager, Viola? Ma guardi, nella forma sicuramente sembra essere stata un'incursione dall'alto questo ovviamente non è un segnale che credo sia piaciuto a molti. Sulla professionalità dell'amministratore delegato attuale posso nel piccolo anch'io testimoniare che è sicuramente un manager eccellente. Allora, grazie anche al Presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, è veramente tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Berigioni, l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo passerà lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.